e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Buongiorno a voi e benvenuti. Oggi Eccoci. È giovedì. Sì. Risparmiamo e investiamo, e lo facciamo in stile cuore denari. Lo so che l'inizio è un po' sibellino, ma fidatevi e affidatevi. Esatto. Ti piace? Mi piace moltissimo. D'altronde, lo so perché ti piaccio io. Diciamola. Possiamo svelare sempre tutti gli altarini. Siamo qua. Sì, fidatevi e affidatevi, sarà il filo conduttore di tutta la trasmissione per quello che riguarda la parte di denari, essendo giovedì, come ricordava Nicoletta, c'è la scuola di risparmio, c'è Investire Informati e abbiamo chiamato a raccontarci qualcosa di interessante proprio un consulente indipendente molto giovane che ha affrontato nella sua recente vita professionale anche un caso di una persona che è rimasta invischiata in un ennesimo caso di risparmio tradito, l'ha aiutata a risollevarsi, da lì ha scritto un libro, quindi quella persona si è fidata ed affidata e racconteremo questa storia. Per la parte di cuore vi propongo un investimento molto redditizio. Investiamo su di noi, ragazzi. Lavoriamo sulla nostra autostima, ne abbiamo bisogno perché probabilmente, lo scopriremo strada facendo, puntata ascoltando, l'ultima persona a cui diamo fiducia e valore siamo proprio noi stessi. Siamo molto abili, ci viene facile inquadrare le persone con cui volenti o nolenti abbiamo a che fare. C'è chi si riconosce tra l'altro un talento innato in questa cosa, ma è molto difficile e oltremodo impegnativo fare una valutazione obiettiva di noi. Allora vi metto subito alla prova. Chiamate il nostro numero verde e mi metto alla prova perché forse non saprei rispondere e provate a fare un quadro di voi. Quali aspetti, caratteristiche, doti mettereste in evidenza? Possiamo partire da qui? Lo chiedo per capire se potrebbe essere un buon punto di partenza, perché noi vogliamo fare una puntata molto molto concreta al nostro ospite di oggi, il primo ospite della puntata di oggi, che è Giovanni Gabrielli, che è in studio con noi e noi come sempre siamo in diretta Facebook, siamo qua belli da vedere. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, intanto iniziamo con le parole. Lei è un coach, perché si usa sempre parlare le parole inglesi, che mi sembra che qualche sia un termine che è stato preso dall'ambiente sportivo. Possiamo tradurlo come allenatore? Non lo so. Un allenatore mentale. Un allenatore. Un mental coach fondamentalmente è un allenatore mentale, cioè fornisce delle strategie di pensiero e di comportamento ai nostri clienti. Noi non trattiamo pazienti, ma trattiamo clienti. E voi siete i nostri ascoltatori e oggi all'800240024 potete approfittare delle indicazioni di Giovanni Gabrielli. Iniziamo proprio a capire, no? Perché noi pensiamo di conoscerci, ma poi quando dobbiamo descriverci, raccontare che cosa sia, chi siamo, cosa facciamo, iniziano subito le difficoltà. C'è chi non sa neppure da che parte iniziare, chi è molto generoso e chi troppo critico. Allora, Gabrielli, ci aiuta? Sì. Se noi dobbiamo, abbiamo invitato i nostri amici a chiamarci, da che cosa si dice? Uomo, donna? Quali sono? Tutto nasce dall'autostima. Tutto nasce dall'autostima perché è l'eredità che noi sviluppiamo nei primi anni di vita e che ci portiamo poi costantemente durante tutto l'arco della vita. Possiamo sviluppare e migliorare l'autostima, però quello che noi apprendiamo dai 3 ai 10 anni ha molto di costanza comportamentale poi nel periodo in cui siamo grandi. Che cos'è l'autostima? L'autostima è il valore che noi diamo a noi stessi, il valore che assegniamo a noi stessi in maniera assolutamente soggettiva, cioè non basata da dati di fatto, e che ci viene fornita essenzialmente nelle prime fasi dello sviluppo, dai 3 agli 8 anni, dai nostri genitori, dai nostri insegnanti, dalle figure di riferimento che possono essere l'allenatore, un familiare importante per noi, un nonno, un amico di famiglia, un sacerdote, a seconda di quelle che sono le nostre frequentazioni. L'ambiente. Ed è importante quindi che queste persone imparino a parlare, perché l'autostima nei bambini specialmente la formiamo con le nostre parole, quindi dobbiamo allora stare attenti. Vogliamo puntare prima sulla prevenzione, quindi dare dei consigli ai genitori all'ascolto, o vogliamo iniziare più dai casi difficili, Gabrielli, e quindi delle persone che magari non hanno magari avuto e qui, insomma, iniziamo dai piccoli o dai grandi? A lei la scelta, poi la giudico su questo aspetto. Cominciamo dai grandi, così manteniamo la curiosità delle mamme e dei genitori che ci ascoltano fino alla fine. Allora, quindi lei ci aiuterà a fare una valutazione di noi stessi, ma invitiamo naturalmente i nostri amici a darci il materiale su cui lavorare. Chiamateci, raccontateci al nostro numero verde e dal vostro racconto Giovanni Gabriele partirà per dare indicazioni e aiutare quindi con i suoi suggerimenti a riprendere un po' la nostra situazione in mano. Tra l'altro ho letto che lei ha ideato un modello di coaching, di allenamento mentale, che permette proprio attraverso delle brevissime sessioni di coaching one to one di lavorare su un unico aspetto mentale alla volta. Ma mi spiega, perché magari noi rubiamo qualche sua indicazione e ce lo facciamo da noi. La cosa che dobbiamo assolutamente evitare quando noi pensiamo a noi stessi è di essere imprigionati dentro una cella comportamentale da cui non si può uscire. Tutte le volte che noi diciamo questo è il mio carattere, io sono fatta così, mi piacerebbe cambiare ma non posso, stiamo dando ci stiamo dicendo una bugia cognitiva, perché noi possiamo cambiare l'80% dei nostri comportamenti. In qualunque momento. Non mi cambiare troppo, perché a me è però, già volendo, sapendo come fare e avendo un obiettivo e accettando l'insicurezza e la sofferenza che c'è nel cambiamento. Tutti noi vogliamo cambiare in maniera rapida, con una cosa che sia facile, semplice, che ci faccia sentire sicuri e senza sforzo. I cambiamenti comportamentali non sono così. All'inizio, quando noi cominciamo a modificare qualcosa di noi, dobbiamo accettare il disagio di fare una cosa che è difficile, complicata, che ci rallenta e che non ci fa essere sicuri del risultato. E su questo noi abbiamo elaborato 5 bellissime bugie per non cambiare mai. Dai, le sappiamo. Le 5 bugie. Magari invitiamo gli ascoltatori a sentire qual è la bugia che loro si dicono più spesso per non cambiare. Quindi non posso cambiare perché io sono fatta così. Perché non è il momento giusto. Non è il momento, non sono motivata. Funziona, no? Funziona per la dieta, per smettere di fumare, per cambiare lavoro, per mettere a posto una relazione sentimentale. Il momento giusto non arriva mai. C'è un filosofo che dice: quando è il momento giusto per piantare un albero? Ah beh, certo. 20 anni fa. E adesso qual è il momento giusto? Ora. Noi dobbiamo affrontare il cambiamento quando ci sembra necessario farlo. Non aspettiamo il momento giusto. Le cose da sole non si sistemano mai. Le dobbiamo forzare noi. Stavo pensando a quanta relazione c'è tra quello che stiamo dicendo adesso, Nicoletta, il tema che affronterò più tardi, a cuore denari in investire informati, perché racconteremo proprio il caso di una persona che ha dovuto affrontare un cambiamento drastico della propria vita finanziaria in un momento drammatico di emergenza della propria vita economica, per cui per lui è arrivato quel momento affrontando un'emergenza. Se avesse preso le cose per tempo, in realtà, se quel momento fosse arrivato in un'altra fase appunto della sua vita, le cose sarebbero andate. Veramente è stata una fortuna circostanza stamattina quella che ha fatto incontrare. Le cose non capitano mai a caso. Esatto. Vogliamo sentire Marco da Roma? Sì. Intanto poi arrivano già dei messaggi via WhatsApp e ci aiutano, ma mi piace lavorare anche sul cambiamento, perché quante volte nella vita ci si ritrova a ripartire da zero, ad andare a capo, a dover ricominciare. Spesso l'idea di non farcela ci blocca, ci paralizza, ci fa diventare dei gufi impagliati e invece noi dobbiamo un po' andare in quell'onda, un po' come raccontano il bruco e la farfalla. Vero? Marco, buongiorno da Roma. Buongiorno. Marco, aspetti lì, mi lancia lei il traffico e poi ritorna. Me lo lancia lei oggi? Traffico. Andiamo. Cuore e denari. L'autostima di prima mattina. L'autostima di prima mattina è un toccasana, ti scatena un effetto galvanico nella persona. Tiene alta l'opinione di te, chissà perché, chissà perché. Anche sugli altri chi è allora, questa canzone? Allora, me l'ha detto Laura ieri. Ah, non te mi lo sembra ricordi. Che si chiami X, vero? X si chiama. Come una mia amica che si chiama Xenia, la chiamiamo X. Allora, noi abbiamo Marco, che chiameranno tutto Marco, non ci sono abbreviazioni, no, diminutivi di Marco. Marco, allora, siamo qua per lei, con lei, per parlare di autostima e dintorni. Sì, no, io il primo pensiero che mi è venuto, autostima, anche con i tempi che corrono, vista anche la storia, che aveva molta autostima, poi quello che ha fatto, no? Mi viene da pensare che troppa autostima, se non moderata, se non... controllata, possa sfociare nella vanità o nell'orgoglio, che potrebbe essere per esempio anche deleterio. Allora, come misurare questo? Se è giusto averne troppa o meno, o se è giusto quello che eventualmente dico, e se comunque migliorare se stessi per aumentare la autostima, c'è un'età, cioè darsi perché diciamo non sconfitti ma rassegnati quando c'è una certa età, magari fare delle rinunce nello studio per esempio, ecco. Far girare insomma l'argomento su queste tematiche. Grazie Marco, resti con noi. E io aggiungo anche lo stimolo che arriva da Ilenia, perché Ilenia dalla provincia di Verona ha raccolto il nostro invito ad iscriversi, e forse tra i due, tra Marco e Ilenia, potrebbe esserci una relazione. Poi andremo anche alle bugie che ci raccontiamo per non cambiare. Ilenia, buongiorno. Buongiorno. Io chiamavo proprio perché per me era importante portare la mia testimonianza, in quanto penso che io diciamo sono l'esempio del fatto che non sia mai troppo tardi per cambiare. Io mi descrivo come una persona estroversa e impulsiva, infatti questa mia caratteristica mi ha portato a chiamarvi subito. E sinceramente quando ero piccola non era assolutamente così, ero una persona, una bambina molto timida, però è stato un ruolo importantissimo quello della mia maestra della scuola elementare, che mi ha aiutato tantissimo a livello di autostima e motivazione. E secondo me, riportandoci al discorso che faceva il dottor Gabrielli prima, è proprio fondamentale, diciamo, la base infantile riguardo dell'autostima. Sì. A me è servito tantissimo, perché è stato grazie a questo, grazie alla mia maestra, che io sono diventata la persona estroversa, positiva che sono. Mi leggo anche il discorso di Marco, che è molto importante. Io so, penso di sapere riconoscere i miei difetti, e ne ho molti, ed è secondo me fondamentale avere un equilibrio fra capire ciò che si è e ciò che diciamo, ciò che si può fare, certo, e ciò che invece non si può fare, perché sennò si arriva alla vanità e al troppo orgoglio, che poi non ha niente a che fare con l'autostima. Dare valore, il valore che percepiamo di noi è una sorta di energia che ci porta a stare bene con noi stessi e a relazionarci con gli altri. E se diventiamo dei palloni gonfiati o ci sentiamo come degli straccioni, nel senso come dei moci, non riusciamo a essere. Ecco. Gabrielli. Marco e Ilenia hanno detto due cose corrette e intelligenti, veramente, bravi, avete colto il senso. Marco dice: che differenza c'è fra l'autostima e l'arroganza e qual è il confine? È semplice, l'autostima è una valutazione che noi diamo di noi stessi verso gli altri. L'autostima è alta, positiva, quando noi non ci sentiamo inferiori agli altri. Questa è alta autostima. Diventa arroganza quando noi ci sentiamo superiori agli altri. Questo è il confine. Se io mi sento non inferiore agli altri, ho un buon livello di autostima. Se mi sento superiore a tutti gli altri, questa autostima sta diventando arroganza. Quindi bisogna sempre cercare di vedere questo confine. Ma già non senti. Noi dobbiamo imparare ad essere abbastanza. Mentre fin da piccolini, la società, la cultura, i media, tutto, ci insegnano che non siamo mai abbastanza rispetto a uno standard. Allora non sono abbastanza intelligente, non sono abbastanza in forma, non ho abbastanza soldi, non ho una bella casa, non siamo abbastanza. Dobbiamo imparare a considerarci abbastanza per noi, non per gli altri. Dottor Gabrielli, sicuramente l'autostima, e poi lei darà delle indicazioni, certo, dei consigli ai genitori di bambini, certo, piccoli, perché, certo, li si struttura da piccoli. Comunque l'autostima è più facile picconarla che costruirla. Ci sono sicuramente delle situazioni, delle condizioni, dei nostri modi di fare che la sgretolano. Allora, io abbiamo ancora in sospeso le domande. E su questo mi piace tornare, ma ci aiuti anche a capire quali sono i nemici della nostra autostima. Sì, i nemici della nostra autostima sono essenzialmente tre, direi, almeno dal mio punto di vista. Il primo è che tutta la società, ma fin da piccolini nello sport, nella scuola, ci hanno insegnato che la vita è una costante competizione verso gli altri. Ci hanno messo costantemente in gara noi stessi con gli altri. E quindi noi dobbiamo essere più belli, più ricchi, avere la macchina più bella, avere la casa più bella, i vestiti più belli, andare in un resort più bello dell'altro. Non facciamo le cose per noi, ma facciamo le cose per vincere la competizione con gli altri. Più un genitore, più una persona si rapporta costantemente con gli altri e diventano gli altri il metro di paragone, e più rischia, specialmente se ha una bassa autostima, di perderla sempre. Quindi smettiamo di sentirci in gara con gli altri. È giusto sentirsi in gara, ma sentiamoci in gara con noi stessi, punto. Se noi smettessimo veramente di non sentirci più in gara con gli altri, acquisiremo una serenità e una focalizzazione comportamentale che ci farebbe raggiungere qualunque obiettivo noi ci fissiamo, qualunque obiettivo umanamente raggiungibile. Quindi non sentirsi in competizione. Secondo, sensi di colpa. I sensi di colpa sono qualcosa che i nostri genitori usano, hanno usato come ricatti affettivi. Se non fai questo mi deludi, se non fai questo vuol dire che non mi vuoi bene, se non fai questo vuol dire che non apprezzi me come capo. Se noi cadiamo nel sentirci in colpa per qualcosa che abbiamo non abbiamo fatto rispetto ad altri, la nostra autostima non funziona. Non vi dico di non avere senso di colpa, perché ormai sappiamo benissimo come farci, però vi dico, perdonateveli. E restate con noi, a tra poco dopo il GR. Il segnale orario vi è offerto da Axerta, indaga, documenta, accerta, www.axerta.it. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. State ascoltando un programma offerto da UPMC Chianciano Terme è cura e prevenzione. UPMCChianciano.it. Cuore e denari. È arrivato il nostro momento. Forse oggi si cambia. Forse oggi è il momento di valutare il valore che diamo a noi stessi. Spesso ci lamentiamo che gli altri non ci capiscono, che non ci apprezzano, che ci boicottano e buttiamo su di loro tutta la colpa, la nostra frustrazione. Gli altri diventano in un certo senso la nostra giustificazione. È probabile che una parte di verità ci sia, perché insomma non è che... Però, dato che gli altri noi non possiamo cambiarli, proviamo ad attrezzarci noi. Abbiamo qui in studio con noi Giovanni Gabrielli, mental coach, che però non sente, no. Carmelo, quindi se lui non mi sente io posso parlare della Carmelo dell'autostima. Era adesso, talmente rapito dai però, contenuti che ha perso di vista il mixer stamattina. Ma noi adesso lo recupereremo perché abbiamo delle... Allora ha avuto... Adesso chiamo Burdo. No, sai che cosa è successo? Che secondo me è venuto Marco per sistemare le cuffie dell'altro ospite che si è aggiunta alla nostra tavolata. Guardalo qua. Lui, vedi? Ma lui è strafelice e adesso qua è in competizione. Abbassato probabilmente. Adesso sente Gabriele. Bonelli. Adesso tiro su tutti quanti i cursori e vediamo che sentiamo. Eccolo là. No, no, era stato Pannocchietta a fare il danno. Io già me lo sento, che adesso è venuta a ricontrollare. A proposito di competizione, Gabrielli, sì, allora, intanto molti apprezzamenti arrivano su di lei, quindi grazie. La sua arriva fuori da questa trasmissione tronfio come un pavone. Ecco. Cioè, la coda tutta estesa. Ecco, però noi avevamo in sospeso delle cose. Sì. Intanto poi abbiamo anche in sospeso l'appuntamento con i nostri genitori, i pediatri e i vaccini. Abbiamo Marina da Rovigo, stai lì un attimo. Abbiamo detto che ci sono dei freni per il nostro cambiamento. Diciamo, non è tempo, non ho la motivazione, eccetera. Lei aveva detto che ce li avrebbe un po' elencati e quindi le chiedo se ci fa un rapido quadro della situazione, così noi ci riconosciamo e diciamo vabbè, questo allora ci penso magari. Sì, la prima bugia è: non è il momento giusto, è bellissima. Noi siamo abilissimi a decidere. Ho deciso di mettermi a dieta, ho deciso di lasciare mia moglie o mio marito, eccetera, ho deciso di andare in palestra, ho deciso di fare investimenti finanziari. Esatto. Io sono uno che quando decide, decide. E quando lo fai? Beh, quando è il momento giusto. Decidere non serve a niente, dobbiamo fare, fare nel presente. Quindi il primo suggerimento è: non aspettate troppo tempo tra la decisione e il fare, perché più aspettiamo, più arrivano tutte le nostre bellissime scuse che ci accompagnano da quando siamo nati, che ci rallentano. Mi metto a dieta quando? E beh, adesso c'è Natale, dopo Natale c'è Pasqua. Sono le vacanze, c'è Ferragosto, vado in crociera. Esatto. Ecco. E qua decidiamo, Girovita esplode. Decidiamo e facciamo subito, questo è il primo. Comincerò quando? Quando sarà la stagione, quando ci saranno le conseguenze, è molto simile al precedente. Non cominciare, non dobbiamo aspettare. La vita non ci aspetta. Come dice Baglioni, la vita è adesso. Esatto. Facciamolo nel presente, punto. Il terzo è: non fa per me. Questo non fa per me, che sottende poi a non la so fare, non ce la faccio, ho paura di sbagliare. Ci hanno sempre insegnato il perfezionismo. Essere perfetti non serve a nulla, anche perché è un obiettivo che non si raggiunge mai. Dobbiamo minimi cambiamenti incrementali significativi, proiettare sempre l'immagine di noi stessi che abbiamo in mente, ma deve essere la nostra immagine, non qualcosa che viene da altri. E quindi questo è quello che possiamo fare. E un'altra cosa: volerlo. Il cambiamento non deve essere un devo, perché al devo noi facciamo resistenza, deve essere un voglio. Perché se è un voglio, dobbiamo accettare il disagio, la sofferenza di cambiare e avere un obiettivo. Uno solo alla volta, mi raccomando, noi possiamo cambiare di noi stessi una cosa sola alla volta. Cominciamo dalle piccole mettere cose. Mettere troppa carne al fuoco non va bene assolutamente. No, assolutamente. Allora Marina, buongiorno da Rovigo. Benvenuta. Buongiorno. Buongiorno Marina, eccoci qua. Marina, buongiorno. Siamo qua. Dunque io praticamente come storia vengo un po' come dalla signora di Verona. Sono fin da piccola stata una ragazza sempre molto timida. Però diciamo che ho sopperito a questa mia timidezza con un carattere abbastanza aperto. Sì. Molto allegro, e quindi insomma diciamo che con questo carattere allegro sono riuscita a infrangere questa timidezza. Marina, venendo al dunque, che cosa lei vuole? Chiedere un aiuto, raccontarci una storia, una testimonianza? Diciamo che anch'io ho sempre avuto poca stima di me stessa, nel senso che mi sono sempre sentita poco avvezza a fare tante cose, poco capace di fare tante cose. Invece mi sono accorta che appunto applicando il discorso voglio fortissimamente voglio, ho fatto tantissime cose che mi hanno dato anche molta soddisfazione. Oh, ho brava affrontato Marina. Anche dei lavori che sono praticamente maschili, cose anche abbastanza pesanti, che comunque mi hanno dato una grandissima soddisfazione, e ho avuto anche soddisfazione dalle persone che hanno giudicato, diciamo, il mio operato. Ecco e Marina ci dà soddisfazione. Due cose che ha detto Marina. Una, ha detto uno dei comportamenti più tipici molto spesso delle persone che sono abbastanza timide, che possono sembrare anche allegre, eccetera, perché è una forma di contenimento della loro timidezza. La seconda è: io mi sento capace di fare tante cose e le ho fatte. Qui non stiamo parlando di autostima, ma stiamo parlando di autoefficacia, che è un'altra cosa di cui questa mattina non parliamo. Non possiamo parlare di tutto. Deve tornare a trovarci, soprattutto perché io apro il nostro spazio, un pediatra per amico. Fino a venerdì abbiamo lanciato questa iniziativa. Tema della settimana. Insieme ai pediatri della Società Italiana di Pediatria e della FIMP, Federazione Italiana Medici Pediatri, sulle nostre pagine i pediatri rispondono alle domande, ai dubbi, alle provocazioni dei genitori sul tema vaccinazione, dalle 10 del mattino alle 17. Oggi è tornato a trovarci il professor Alberto Villani, presidente della Società Italiana di Pediatria e responsabile di pediatria generale malattie infettive dell'ospedale Bambino Gesù di Roma. Buongiorno. Buongiorno. Quindi ieri ha visto Melania. Ieri sì, c'è stata questa grande opportunità ed è stato veramente un qualcosa di emozionante, perché abbiamo visto con quanto affetto si è avvicinata a tutti i bambini. Professore, allora torniamo al filo diretto con dubbi e perplessità dei genitori. Leggiamo la domanda di Fulvio, che sulla nostra pagina Facebook dedicata all'iniziativa scrive: vorrei capire a cosa serve vaccinare un bimbo di 3 mesi contro l'epatite B. Il rischio di contagio è al 99% per via sessuale. Professor Villani, che cosa ha da rispondere a Fulvio? Ma guardi, lo sorprenderemo ancora di più, perché in realtà alcuni bambini vengono vaccinati entro i primi 2-3 giorni di vita e sono quelli che hanno la madre HBsAg positiva, quindi il vaccino può essere fatto addirittura a 1-2 giorni di vita. Per quanto riguarda la vaccinazione, primo, non è vero che si trasmette solamente per via sessuale, quindi ci sono molte altre modalità di trasmissione. E poi è importante proteggerlo, ad esempio, liquidi biologici, quindi non è che c'è solo la possibilità sessuale. E quindi è opportuno vaccinarsi proprio per essere pronti qualora ci fosse il rischio. Noi avevamo una situazione drammatica in Italia prima dell'immissione della vaccinazione, e non solo, si è rivelata una vaccinazione molto importante, perché come effetto inaspettato c'è stata anche una diminuzione significativa dei casi di tumore del fegato. Quindi è una vaccinazione sicura, efficace, che può e deve essere fatta. È chiaro che il rischio si è notevolmente ridotto, ma si è ridotto proprio grazie alla vaccinazione. Professore, la sentiamo un po' malino, perché so che lei è in viaggio, però volevo chiederle: per chi è sicuro di aver fatto la varicella? Sì. Che si fa? Se è sicuro di aver fatto la varicella, non si fa nulla. Qualora ci fosse il dubbio, non succede assolutamente nulla, anzi è bene proteggersi in ogni caso e si può tranquillamente fare il vaccino. Quindi chi già l'ha avuta non ha nessun motivo di farla, soprattutto se è sicuro di questo. Ma se è sicuri, perché la varicella è una malattia, insomma, le bollicine, le croste difficili. Non sempre è così chiara la situazione, perché non sempre vengono tante bollicine, non sempre si riesce a fare diagnosi con chiarezza e assoluta certezza. Poi alcuni genitori se ne dimenticano. Il concetto è che non succede assolutamente nulla qualora si fosse avuta la varicella e poi si fa il vaccino. Questo è il concetto, quindi di stare tranquilli. È chiaro che non ha senso farla nella certezza, ma nel dubbio, nell'incertezza, qualora venisse fatta la vaccinazione non c'è nessun rischio nell'aver avuto in precedenza la varicella. Ci sono, mi scusi, ma poi su questa cosa continuiamo poi naturalmente anche sulla nostra pagina, perché dalla diretta Facebook ci scrive un'ascoltatrice, Angela, chiedendo proprio a lei, professor Villani, riguardo il vaccino. Lei scrive che lei avrebbe detto che rinforza il sistema immunitario, non lo so. Lei, Angela, vorrebbe sapere quali sono le evidenze scientifiche che confermano queste affermazioni. Professor Villani, che noi, professore. Certo, non è che vale solo per la varicella, vale per tutto questo, nel senso che anche se si è avuta una malattia, il vaccino quello che fa è ristimola, quindi costituisce in ogni caso una dose di rinforzo per il sistema immunitario che riattiva quelle cellule specifiche che devono proprio combattere quella malattia. Allora, e questo è documentato non solo per la varicella, ma per tutte le malattie. Ecco, se magari nelle nostre pagine mettete per i genitori che hanno il piacere di leggere, quindi di andare a vedere testi, di immunologia, eccetera, i riferimenti. Sia di più semplici che di più complessi. Anche quelli più complessi, così hanno tanto da leggere e l'informazione è alla base della prevenzione. Grazie professor Villani per aiutarci a fare questo lavoro. E intanto noi, grazie, buona giornata. E intanto... E vedi, che è andato. Posso dire subito? No, non ha detto. Allora, e intanto l'ospite l'abbiamo presentato. Sì, esatto. Abbiamo promosso. In realtà non ho detto il nome, mi sa che abbiamo detto che un'altra persona si era aggiunta alla nostra magica tavola, non rotonda ma ovale, un po' sbilenca, come potranno notare gli amici che ci seguono da Facebook. Però Luca Lixi, buongiorno. Buongiorno a te Deborah, allora, buongiorno Nicoletta e buongiorno a tutti. In realtà volevo svelarlo dopo il nome, mi ero costruita tutto un preambolo della scaletta. Scusa, ma io ho visto ma non è questo il punto, è che comunque necessariamente seduto qua mi pare carino anche presentarlo. Perché sennò mi picconi l'autostima, Esatto, chiudo la tua ruota da pavone brutalmente. La cosa buona è che abbiamo deciso di far rimanere anche il nostro mental coach, perché ci serve, molto pertinente la sua presenza. Grazie. Questa mattina col tema che affrontiamo anche insieme a Luca, a cui so che piacerà molto anche il taglio dato che abbiamo deciso improvvisamente di dare al proseguimento del nostro programma. Che ne dici? Sì, e poi ai genitori all'ascolto, quindi sì, esatto. Anche a Laura Vanossi, al di là del vetro, e a Carmelo che hanno bambini piccoli, non ci siamo dimenticati, anzi soprattutto Giovanni Gabrielli non deve dimenticarsi, prima di uscire da questo studio, di dare consigli flash per i genitori, una sorta di mini guida. Voilà. Allora, poi mi devi aiutare ad andare avanti. Allora, qual era il preambolo che volevamo fare alla nostra rubrica del giovedì? Lo sapete, noi qua proviamo ad aprire i giornali e a dare gli strumenti per leggerli, soprattutto nei contenuti di finanza, ai nostri ascoltatori. E questi strumenti proviamo a darli soprattutto a quegli ascoltatori che dicono: io di finanza non capisco nulla, pertanto salto di palo in frasca, passo dalle pagine di cronaca a quelle di sport e la finanza non la leggo perché tanto sono temi che non mi interessano, non li digerisco e quindi bypasso. I mercati sono effettivamente un mondo difficile da comprendere, soprattutto da prevedere, e questo lavoro giustamente lo fanno i professionisti che sono in grado di leggere le dinamiche finanziarie con padronanza, anche se poi fanno dei grandissimi errori anche loro, come abbiamo appreso lo scorso anno in due grandi circostanze in particolar modo, ma più volte abbiamo avuto modo di dare testimonianza di questo. E però insomma il fatto che siano imprevedibili e complessi porta molte persone a mantenere un distacco a volte molto profondo dai mercati, e questo fa perdere loro anche a volte delle opportunità che magari invece ci permetterebbero, se volessimo comprendere meglio, di distribuire meglio il nostro risparmio e farlo magari conservare e fruttare bene nell'ottica temporale che ci siamo dati o che vorremmo darci. E quali sono però i problemi? Non sappiamo vedere i rischi. Magari andiamo in banca e ci consigliano non certo secondo il nostro interesse o non sempre, non sappiamo scegliere il consulente finanziario che ci aiuta a fare le operazioni giuste. Insomma, quando si tratta di fare delle scelte coerenti con il nostro profilo di rischio e coerenti con gli obiettivi finanziari che ci siamo dati, personali o familiari, siamo sempre un po' in difficoltà. Insomma, per sintetizzare, anche qua Nicoletta abbiamo bisogno di qualche regola di condotta. E questo è il tema della nostra rubrica del giovedì. Investire informati. 1. Non delegare ciecamente. 2. Pensa strategicamente. 3. Assicurati. 4. Investi in azienda. 5. Guadagna, risparmia, investi. 6. Usa il rischio. 7. Sfrutta il tempo e l'interesse composto. 8. Diversifica. 9. Spegni la TV. 10. Conosci te stesso. eccoli qua i 10 comandamenti dell'investimento finanziario, li ha elaborati questo nostro consulente che è venuto a trovarci questa mattina, argomentati uno ad uno nel suo libro edito da Dario Flaccovio editore. Luca Lixi, buongiorno, ben ritrovato, mi viene da dire, perché lui è un grande fan di Cuore e Denari, per cui è un po' come se fosse sempre qua, ecco. Tra l'altro abbiamo appreso anche una cosa nuova questa mattina, almeno per me che il sardo non lo parlo, che Lixi è scritto così ma si pronuncia diversamente. Assolutamente mi sì. Sembra corretto anche dirlo. Io continuerò a chiamarti Luca Lixi. Ormai però, mi sono abituato. Però come si pronuncia? Si pronuncia Ligi. Ligi, ecco qua, insomma, in cagliaritano. Sì, cultura finanziaria sarda. Quindi. Ecco qua. Allora, consulente finanziario indipendente con un passato di una decina d'anni da bancario tradizionale. E questo, insomma, lo scheletro nell'armadio di cui dobbiamo raccontare. È anche promotore finanziario. È stato promotore finanziario, non si rinnega naturalmente il passato, perché anche quello serve per l'esperienza odierna. L'ho fatto io un veloce biglietto da visita, perché voglio andare subito al punto, al cuore della storia che racconti, Luca, in questo libro. La storia di Stefano, che eredita l'azienda di suo papà con coraggio, determinazione, lo fa bene, mantiene anche per un lungo periodo di tempo un tenore di vita alto per sé e per la sua famiglia, poi fa una scoperta molto amara, una bella doccia fredda, gli piove addosso sull'andamento dei suoi investimenti finanziari. Si ritrova a fare un bilancio, peraltro, nel periodo peggiore della crisi finanziaria che abbiamo attraversato e scopre che... Che cosa? Scopre che i suoi investimenti si erano ridotti. Ora non voglio svelare, tanto è comunque all'inizio del libro, quindi ridotti si può parecchio, stare, assolutamente. Ridotti parecchio, passati da 270.000 euro a 70.000 euro. In effetto di che cosa? Per effetto semplicemente dei mercati, che in quegli anni comunque erano crollati paurosamente. Certo. Lo ricordiamo proprio, eravamo all'indomani della bancarotta di Lehman Brothers. Esatto, però per lui è stata una doccia fredda, perché il suo consulente, il suo promotore, il suo fiduciario da questo punto di vista non ebbe comunque il coraggio di dirglielo nel frattempo che gli investimenti stavano scendendo con una serie di artifici contabili, quindi Stefano non era venuto a conoscenza subito di questo crollo dei suoi investimenti. Lo scopre di punto in bianco e non è stata una bella sorpresa, insomma. Certo, ma la storia di Stefano ci racconta la storia di una truffa o in questo caso di una mala consulenza? Mala consulenza, però, che comunque ricade nella truffa, perché comunque consegnare dei documenti contabili contraffatti è una truffa. A mio avviso è comunque una truffa, non so se per legge o altro, però a mio avviso comunque rientra nel campo delle truffe, assolutamente. Certo. Ma a Stefano, questo consulente che aveva seguito appunto la sua vita di risparmiatore, non nella vita che riguardava l'azienda, non consegnava mai un documento, appunto. Esatto. Tu ricostruisci un po' tutto quello che è capitato a Stefano. In che momento tu incontri la storia di Stefano? La incontro quando ha appena scoperto comunque questa grossa perdita ed è costretto a chiedere un finanziamento. È costretto a chiedere un finanziamento perché aveva delle scadenze in azienda da dover pagare assolutamente, i fidi comunque erano già stati utilizzati e si trova costretto, pur avendo un patrimonio discreto, ormai pur non avendo più un patrimonio discreto, a dover richiedere del nuovo credito, quindi lo conosco in questo contesto. Certo. Qua. E tu ancora lavoravi in banca, esatto. Anche tu non avevi fatto la scelta coraggiosa di cambiare lavoro. Esatto. Perché anche in questo caso, intrecciando un po', Nicoletta, il cammino che stiamo facendo con il nostro mental coach, anche Luca ad un certo punto da consulente finanziario che opera in banca si sente un po' stretto dal limite del conflitto di interesse, perché tanto bene o male, per quanto tu voglia fare il bene del cliente, ti porti sei in qualche maniera portato a fare l'interesse anche della struttura finanziaria che rappresenti, però ad un certo punto si decide di cambiare mestiere. Sì, per quello che ti riguarda, la tua esperienza com'è avvenuta? Guarda, niente da dire ovviamente contro chi è un impiegato bancario, un dipendente. Non è questo il terreno del giudizio. Si fanno delle scelte ad un certo punto. Assolutamente sì. In certi casi, se c'è comunque anche il desiderio comunque la consapevolezza di poter fare qualcosa in più, di poter essere più utile rispetto a farlo semplicemente da un ufficio bancario, bisogna assolutamente farlo, ma a beneficio anche prendere di chi acchiappare il momento, perché Giovanni Gabrielli parla della linea del tempo, che è una linea un po' su cui noi abbiamo delle idee, ma che forse non ci aiutano. No. Non so se è una bugia, ma direi assolutamente sì. Noi fin da piccolini ci hanno insegnato che il tempo è lineare, e cioè c'è un passato, un presente e un futuro. In realtà non è così. Il passato non c'è mai, perché c'è solo nei ricordi, perché quando il passato c'è è presente, e il futuro non arriva mai, è sempre un presente che poi continuerà ad essere presente. Però qui ci sono due cose molto importanti. La linea del tempo è trasversale al presente. Però questo lo potrebbero verificare anche gli ascoltatori. Molto spesso essere troppo nel passato, sensi di colpa, rimpianti, rimorsi, ci porta all'umore depresso. Tutte le persone che stanno sperimentando umore depresso, non depressione, che è una cosa un'altra più cosa patologica è una patologia, e non è non entriamo, qualcosa certo, che io tratto, questo. Chi ha umore depresso ha eccesso di passato. Certo. Dovrebbe tornare nel presente. Chi vive costantemente nel futuro è prigioniero delle aspettative, delle allucinazioni verso il futuro e sviluppa ansia. Quindi gli ascoltatori che hanno ansia stanno troppo nel futuro, gli ascoltatori che hanno umore depresso stanno troppo nel passato, gli ascoltatori che stanno nel presente e si credono multitasking e sono impegnati a fare mille molteplici attività soffrono di stress. Quindi il segreto è semplificare. Certo. E Luca Ligi? Infatti. Vedi come lo semplificare no, lui. È stato nel presente. Sì, esatto. Sì. Allora bravo. Tutti questi nostri amici che ritengono di stare nel presente nella maniera corretta, noi questa mattina regaliamo anche un paio di libri di Luca, i 10 comandamenti dell'investimento finanziario, e peraltro nel libro sono ricostruiti a seconda delle tappe della storia di Stefano, il protagonista appunto del libro. Vi chiedo un minuto di pazienza perché vivendo nel presente devo raccontare anche cosa succede adesso in borsa. Come vedi, assorbe la ragazza. È una brava allieva. Mi applico. Brava. 8 lo porto a casa oggi. Andiamo in borsa tra poco. Fineco, la banca che semplifica la banca. Vi presenta. State ascoltando un programma offerto da UPMC Chianciano Terme. È cura e prevenzione. UPMCChianciano.it. Cuore e denari. Eccoci ritrovati in diretta. Allora, per l'appuntamento del giovedì con Investire Informati abbiamo invitato in studio Luca Ligi, adesso lo dico correttamente perché sennò qua non imparo niente, non porto a casa niente da questa trasmissione, almeno il cognome di Luca, consulente finanziario indipendente con un passato da bancario e poi promotore finanziario, ha scritto un libro, i 10 comandamenti dell'investimento finanziario, tutti i segreti per guadagnare evitando inutili rischi. Non ci sono le ricette per moltiplicare i pani e i pesci, Luca, naturalmente, ma solamente per, sulla base di una storia vera che tu racconti e in ogni capitolo, da ogni fase della storia del protagonista Stefano, riporti alla fine uno dei comandamenti. Diciamo, non ci sono i segreti per moltiplicare il denaro perché nessuno li ha, neanche voi che maneggiate i mercati con un po' più di padronanza rispetto ai comuni mortali, al risparmiatore retail, ma ci sono delle regole di buona condotta e la prima regola, la più importante, è quella di darsi un metodo nell'investimento, darsi degli obiettivi di vita, degli obiettivi finanziari e piano piano provare a raggiungerli, perché non è mai troppo tardi, come ci diceva il nostro mental coach, per iniziare anche a fare questo percorso, anche se si è molto resistenti nei confronti del tema finanziario. Luca. Sì, guarda, i temi da trattare sono tanti. Allora, il primo è che non ci sono dei trucchi o comunque delle formule segrete. Delle scorciatoie. Perché comunque non il denaro, da un certo punto di vista, guarda, sarò anche impopolare, però il denaro non si fa con gli investimenti finanziari. Il denaro si fa con l'impresa, con il lavoro e con le aziende soprattutto. Con gli investimenti finanziari il denaro si protegge e si fa crescere, per carità, anche a buoni tassi e buoni rendimenti, però il denaro non si fa con l'impresa. Chi va sul mercato finanziario per fare denaro è probabile che perda tutto il suo denaro. Quindi questo un po' il primo tema. Il consiglio di pianificare strategicamente? Assolutamente sì, i mercati vivono nel futuro comunque, i mercati scontano le aspettative per il futuro, la fiducia verso il futuro, quindi è ovvio, cioè è insito nel mercato finanziario l'incertezza. L'incertezza e il rischio, che sono due concetti separati. Come fare per limitare il rischio e non limitare l'incertezza, perché è impossibile, però insomma stare tranquilli anche durante l'incertezza e non farsi completamente fuorviare, pianificare. Io non vedo altre soluzioni. Investire non è un evento ma un processo, no. Scrivi tu nel libro, no? Sì, dietro a questo basilare concetto. Guarda, che cosa vuoi dire? È un concetto che ho preso da un ultimo libro, faccio un altro consiglio eventualmente, il libro di MJ DeMarco, Autostrada per la ricchezza, in inglese The Millionaire Fast Lane. Investire è un evento, o meglio, investire è un processo, e non è un evento assolutamente, perché ancora si va sui mercati finanziari spesso, mercati finanziari o mercati non finanziari, per cercare il colpaccio, è un po' una mentalità anche da chi, chi è ludopatico, chi gioca eccessivamente, chi gioca alle gratta e vinci, alle lotterie, eccetera. Vuole diventare ricco per un evento fortunoso, ma non è mai un evento. Anche un calciatore, ti faccio un esempio, che diventa ricco a 20 anni, estremamente ricco, non è un evento neanche quello, non è che gli è capitato così dall'oggi al domani. Si è allenato, ha del talento, per carità, anche quello è un processo, tutto è un processo. Investire... anche investire. Certo. Queste... è un po' come il cambiamento, come ci esatto. diceva Giovanni Gabrielli, non è che sarebbe bello dall'oggi al domani, puff. Infatti. No, tra l'altro c'è un altro tema interessante del quale parliamo molto spesso, il fatto del non è mai troppo presto per iniziare. Oggi ci confrontiamo molto spesso con le persone che ci ascoltano sulle esigenze di risparmio che hanno, anche a beneficio dei loro figli, investire sui loro figli. E, perché lo fanno molto spesso i genitori? Perché i ragazzi oggi entrano sempre più tardi nel mercato del lavoro e le prime esigenze che hanno non sono certamente, almeno nella loro testa, quella di risparmiare. In realtà si può cominciare anche in questo caso molto presto, magari attingendo alle poche risorse che si hanno, rinunciando ovviamente a qualcosa, e questa è una come dire, teoria sposata da due giovani consulenti finanziari che in realtà si sono appassionati molto, molto precocemente ai temi della finanza durante l'università, al punto che ne hanno voluto far diventare anche loro il loro lavoro. Allora io saluto Andrea Delle Foglie. Buongiorno Andrea, benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Andrea è uno studente marchigiano, si è laureato in economia, esatto, già un raccomandato già, solo no, per quello. Già il sangue buono. Esatto, ma in realtà Andrea insieme ad un suo amico, Gabriele Galletta, ha fondato prima un blog, ma adesso è diventato un vero sito dove si fa educazione finanziaria, ma anche pianificazione finanziaria, soprattutto a beneficio dei giovani della loro età, che si chiama Investimento Custodito. Andrea, sì, in esatto. due minuti facci il biglietto da visita della vostra storia e soprattutto magari mandiamo un messaggio ai ragazzi della tua età, ai 25-26 anni, secondo i miei calcoli, giusto? Sì, sì, certo. Ecco, che non è mai troppo presto per cominciare a prendere confidenza con questi argomenti e farlo con la logica appunto dell'obiettivo finanziario. Andrea. Assolutamente, non è mai troppo presto perché comunque Investimento Custodito è nato l'anno scorso come blog di educazione finanziaria e poi piano piano, anche con il mio ingresso recentemente, abbiamo deciso di specializzarci nella consulenza e chi il nostro prodotto si rivolge soprattutto ai giovani, ecco perché abbiamo avviato un programma di investimento fatto apposta per i giovani, mettendo diciamo le nostre competenze, tutto quello che noi studiamo tutti i giorni e con cui ci confrontiamo all'università, abbiamo deciso di metterlo in pratica, perché no, anche perché anche in maniera completamente gratuita. E ovviamente il nostro obiettivo è quello di abbattere questa barriera che c'è attualmente, soprattutto in Italia, per una scarsa conoscenza della materia. E per questo motivo abbiamo deciso di partire dai giovani, che sono il futuro e che oggi si vedono molto spesso lasciati da parte sotto il tema investimenti, sotto il tema risparmi, poi anche dedicarci diciamo a un settore un po' più adulto. In sostanza è il nostro obiettivo, una consulenza finanziaria indipendente che non sia in conflitto di interessi e che miri a partire dai giovani a creare, a fornire un'educazione finanziaria. Grazie Andrea, ricordiamo il vostro qualcosa di più ormai di un progetto, ormai un'attività professionale a pieno regime, si chiama sì, Investimento sì. Custodito, lo hai creato insieme a Gabriele Galletta, complimenti, sì. congratulazioni, in bocca al lupo. Se ci volesse seguire c'è certo. il nostro sito, c'è la nostra pagina Facebook. Assolutamente, social network non manca mai naturalmente Andrea. No, stavo pensando che non abbiamo detto invece il sito di Luca, il tuo è Protezione Finanziaria, ma è molto sì. importante, Andrea lo ha chiamato Investimento Custodito, il tuo si chiama Protezione Finanziaria, questo ci dà modo di ribadire il fatto che il denaro che si accantona va in primo luogo protetto, conservato e custodito. Mi piace che da voi vengano fuori questi messaggi, Luca. La regola numero uno è non perdere. Cioè la speculazione appartiene ad un altro mondo, quindi anche nelle nostre operazioni. Da un certo punto di vista, perché comunque se hai pianificato prima, ti sei protetto, puoi anche avere una parte per speculare. Ah, sì, non certo. È negativa la speculazione, a mio, però, per il mio modo di intendere. Bisogna diversificare bene, quella, farla una fetta giusta, nel momento giusto, accompagnato magari anche da una professionalità che ti aiuti a fare certe operazioni. Allora, sono le 11.45, dobbiamo dare la linea al traffico e poi ritorneremo alla storia di Stefano in i 10 comandamenti dell'investimento finanziario e poi anche ai nostri bambini, alle regole per così permettere loro di crearsi un'autostima che li porti per mamma tutta mia. Che portino con sé per tutta la vita in maniera I genitori adeguata. Hanno una bella responsabilità, sicuramente i ragazzini marchigiani, perché sono giovani, sì. Hanno avuto dei genitori che li hanno cresciuti bene, sì, ma poi insomma se il genitore non te lo scegli, te lo trovi, esatto. E dar sempre la colpa ai genitori, sono assolutamente di parte, non è neanche un'occasione per, no? Ci intrappola, quindi ritorniamo subito dopo. Cuore e denari. Ultimissima parte di Cuore e denari, investire informati, dovremmo fare mille cose e dobbiamo grattare qualche minuto a qualcuno probabilmente, Nicoletta. Allora, Luca Lixi, investire informati con il nostro consulente indipendente, 10 comandamenti dell'investimento finanziario, la storia di Stefano che ha perso tutti i suoi soldi investiti, un imprenditore, quindi per fortuna non è caduto proprio drammaticamente a terra, il nostro protagonista della nostra storia, ma poi ad un certo punto Luca lo ha incontrato e lo ha aiutato con dandosi metodo, appunto facendogli assumere del metodo, a rimettersi in piedi. Detto questo, intanto Luca, ricordiamo che dal tuo sito i nostri ascoltatori possono scaricare il primo capitolo del libro. Sì, il sito è, guarda, www.lixcomandamenti.com. Ho fatto una roba apposta per... Hai fatto anche WikiLeaks, hai fatto un sacco di il cose nome si presta, divertenti. Io lo sfrutto. Esatto. Però ne abbiamo due copie. A chi vogliamo regalarlo questa mattina? Che testimonianza possiamo raccogliere interessante dai nostri ascoltatori? Intanto lo regaliamo ad Angelo da Pavia. Glielo mandiamo appunto così perché mi sta simpatico. Ci ha scritto la storia. Gli scadono dei soldi investiti in obbligazioni. Lui ha bisogno di una cedola. Magari gli rispondiamo con calma in privato, ma intanto gli mandiamo volentieri sicuramente il libro. Un tema importante, Luca, è la scelta del consulente finanziario che ci aiuti a raggiungere i nostri obiettivi finanziari. E qua si apre non un capitolo, si apre la giungla, perché di persone ottime, meno buone, sul mercato ce ne sono tante. Come facciamo a scegliere quello che va bene per noi? Anche qui, secondo me, l'approccio iniziale deve partire da parte del cliente, perché io vedo grandi imprenditori, grandi professionisti, grandi uomini d'affari che vanno comunque, continuano ad andare in banca con un certo timore reverenziale. Questa è una roba vecchia degli anni Ottanta, dove il direttore era una figura. Perché lì magari la banca sostiene anche l'impresa in altra maniera, quindi sì, questo è un altro argomento ancora, perché a quel punto magari forse sarebbe meglio anche ricapitalizzare un po' l'azienda, anziché il proprio patrimonio personale, per essere meno schiavi delle banche, anche quando si va a chiedere credito. Quindi sono collegate entrambe le cose. Uno dei tuoi comandamenti è investire in azienda, questo è rivolto appunto in particolar modo agli imprenditori, e dai questo suggerimento anche da Stefano ad un certo punto nel libro. Per il resto, una famiglia normale, che consulente sceglie? Come fa a scegliere quello che fa l'interesse della famiglia, di tutti i componenti, piuttosto che il proprio o dell'azienda che rappresenta? Allora, investire, come comprare qualunque cosa se vogliamo, è comunque una scelta emotiva. Quindi io non posso e non voglio fornire delle leggi totalmente razionali per affidarsi a una persona. A parte che non bisogna affidarsi ciecamente, questo l'abbiamo visto, ok. Delegare consapevolmente, però comunque la parte emotiva è importante. Di chi fidarsi, quindi a chi dare fiducia emotiva? Un consiglio che posso dare è quello magari a chi si... a una persona, a un professionista che lo vedi veramente che ha passione per quello che fa, che ci tiene a informarti, non ci tiene invece a tenerti all'oscuro, a parlare complicato, eccetera, perché se non ti dice le cose, se non te le fa capire, le cose sono due: o non le ha capite lui stesso, quindi non riesce a spiegare. Cosa che capita, Luca, perché lo sappiamo bene, che anzi soprattutto quando ci sono le fasi avverse di mercato, il consulente è il primo a spaventarsi e poi figuriamoci se riesce a conservare lucidità con il proprio cliente. Un altro tema, direi, sul quale dobbiamo sollevare l'attenzione, noi lo diciamo molto spesso, questo monito, questa raccomandazione la forniamo molto spesso: se il consulente la prima cosa che fa prova a venderti il prodotto che va più di moda in quel momento in azienda, è il momento di alzarsi da quel tavolo e interrompere le trattative. È un allarme iniziale che capita subito, sì, ma però la realtà è che l'industria finanziaria in Italia e in parte anche nel mondo funziona così, inutile che ci giriamo intorno. Certo, che poi non è detto che bisogna demonizzare magari la soluzione di investimento prodotta, detto questo non è detto che vada bene per te. È un'altra raccomandazione importante, come dire, diffida di quel consulente che ti chiede del denaro e te lo vuole subito in mano. Sì, assolutamente, però diciamo, l'Italia funziona anche da questo punto di vista, purtroppo, quindi massima attenzione da quel punto di vista, massima attenzione a eventuali cifre in contanti consegnate al consulente, al promotore, massima attenzione a fornire i propri codici di accesso sull'home banking. Certo. Il consulente può fare le operazioni per conto tuo e magari si fa anche un'operazione, un bonifico a suo favore. Succedono queste cose. Allora, per un attimo vogliamo tornare ai nostri bambini? Sì, volentieri. Perché c'è anche una banconota da 10 euro che sta circolando da qualche minuto. Se l'ha già tavolo, messa in tasca, non la vuole usare più il nostro coach. No, la colpa è mia, perché ho detto no, forse non c'è tempo. La prossima volta noi glielo facciamo magari fare. Magari le facciamo, facciamo un video subito, sì, dopo la diretta. Esatto. Ecco, che cosa ci faremo con una banconota da 10? Che poi se me la dà, io guardi, so già dove spendere. Io e te non abbiamo nessun problema. Però. Va bene, la donna di denaro e la donna di cuore spendono. Il nostro obiettivo è a brevissimo termine. Io volevo un attimo riallacciarmi a quello che ha detto lui. Non dovete avere paura di cercare aiuto con persone competenti, perché molto spesso da soli noi non sappiamo come fare le cose. Si tratta sempre di scegliere le persone che hanno un curriculum, che hanno un'esperienza, che hanno una credibilità importante. Bene, torniamo all'autostima per sì, i bambini. Facciamo un assaggio proprio di un minuto per poi dedicare una puntata, perché abbiamo fondamentalmente noi possiamo farlo con il linguaggio. Diamo degli obiettivi realistici ai nostri figli, non sovrastimiamo gli obiettivi. Ricordiamoci sempre che i nostri figli non sono il risultato di una gara sportiva, non sono il risultato di un voto, ma sono molto di più. Non fate mai diventare il giudizio dei vostri figli sul fatto se hanno vinto una gara, se hanno preso un 8 a scuola o meno. È molto di più. In questo il feedback è importante. Ricordatevi questo. Lodate sempre la persona e non il comportamento. Non dite che bel compito in classe che hai fatto, che bella gara che hai fatto, ma dite ma quanto sei stato bravo tu a fare questa cosa. Premiate sempre la persona, non il comportamento, e sempre in pubblico. Premiate anche le piccole cose e non comparatele con gli altri. Non devi essere il più bravo a scuola, devi essere il più bravo nella squadra, eccetera. Premiate i minimi cambiamenti incrementali. Mentre per le critiche, criticate sempre il comportamento e mai la persona. Che vuol dire? Vostra figlia porta un brutto voto a scuola, da casa. Voi dite, ti sei impegnato, io ti voglio bene, indipendentemente dal voto. Il comportamento, vediamo come possiamo fare per migliorarlo. Però la persona non la dobbiamo mai svilire, perché è lì che l'autostima poi si annida. Chissà quanti genitori abbiamo mandato in crisi questa mattina, dopo qualche errore si fanno. Mamma, hai preso ancora 4, ma sei un asino, sei un asino come tuo padre. E sempre, invece no, è sempre in privato, è sempre in privato. Se posso dire, chiudere una brevissima poesia di Keller. Abbiamo detto che l'autostima si crea con le parole. E Keller diceva, una volta non conoscevo la speranza e la gioia. La mia vita era senza passato, era un senza, un continuo senza. Ma una piccola parola cadde dalle dita di un'altra mano, nella mia mano che stringeva il nulla. E il mio cuore sussurrò nell'estasi di sentirsi vivere. Diamo delle parole per farci sentire vivere e alla prossima volta potete seguirmi sul mio sito che è www.giovannigabrielli.it o sulla mia pagina Facebook Giovanni Gabrielli Genius a dimostrazione della mia bassa autostima. Abbiamo anche Luca Lixi, naturalmente, protezione finanziaria, invece il suo sito, Nicoletta il nostro, noi figuriamoci sui social network.